Fare polemica non serve nulla. È, da stolti, è controproducente, ma prendere sul serio le parole che vengono dette è un atto doveroso e di rispetto. Se poi si esprime la propria opinione, diventa anche un gesto di cortesia, poiché in tal modo si dimostra di tenere in considerazione ciò che è stato detto. Se con me parla un ubriaco, mi sento anche il diritto di non rispondere, ma se parla il Presidente della Repubblica, ho il dovere di colloquiare. Ignorarlo è un atto di maleducazione. Così, prendere sul serio le dottrine della religione cattolica è un atto di serietà, sia che si approvino oppure no. Sarebbe più facile ignorarle, ma un simile atteggiamento è tenuto pure da molti cattolici nei confronti della loro religione. E così spesse volte essi si trovano a professare cose che non conoscono, perciò prendere in esame la messa, l'eucaristia o la transustanziazione è un servizio utile al credente e al non credente. È utile al credente perché viene a sapere cosa fino ad ora ha professato, è utile al non credente perché sappia cosa crede veramente il cattolicesimo in merito a queste dottrine. Prima di entrare in merito al tema è necessario spiegare le parole che prenderemo in esame, e cioè messa, eucaristia, transustanziazione. Il termine messa viene dato al più importante rito liturgico della religione cattolica romana, secondo la dottrina della quale durante tale rito il pane e il vino si trasformano letteralmente nel corpo e nel sangue di Cristo. Il termine eucaristia significa riconoscenza, rendimento di grazie o sacrificio di lode, 2643, ed è ritenuto dal cattolicesimo romano il sacramento riferito alla messa. Il termine transustanziazione significa cambiamento di sostanza ed è riferito sempre a ciò che succede durante la messa. Leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica: l'Eucaristia è fonte e apice di tutta la vita cristiana, 1324. E ancora, nella Chiesa vi sono 7 sacramenti: il battesimo, la confermazione o crismazione, l'Eucaristia, la penitenza, l'unzione degli infermi, l'ordine, il matrimonio. Anticipa questa dichiarazione il Catechismo dicendo: tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al sacrificio eucaristico e ai sacramenti, 1113. Così, trattare l'argomento dell'Eucaristia significa considerare il cuore della religione cattolica romana. Perciò non è possibile comprendere il cattolicesimo romano se non si è a conoscenza del valore che questo attribuisce all'Eucaristia, alla transustanziazione e alla messa. Una cosa è certa: per il cattolicesimo romano l'Eucaristia è talmente importante che chi non la considera come viene definita dalla religione cattolica commette un sacrilegio, cioè un'azione gravemente colpevole. Il Catechismo lo dice espressamente: il sacrilegio consiste nel profanare o nel trattare indegnamente sacramenti e le altre azioni liturgiche, come pure le persone, gli oggetti e i luoghi consacrati a Dio. Il sacrilegio è un peccato grave, soprattutto quando è commesso contro l'Eucaristia, poiché in questo sacramento ci è reso presente sostanzialmente il corpo stesso di Cristo, 2120. Da un certo punto di vista non vi è nulla di male a sostenere delle proprie convinzioni in qualsiasi campo, sia in materia di religione sia di vita, perché anche gli induisti sostengono con vigore la reincarnazione, mentre in Giappone per secoli l'imperatore era ritenuto come Dio. Finalmente, nel XXI secolo, questi ultimi hanno compreso l'errore da loro commesso per secoli, ma il cattolicesimo resta ancora fermo nel sostenere alcune proprie dottrine, come per esempio quella che dichiara il Papa simile a Dio, giacché lo ritiene infallibile pur essendo palese che tale prerogativa non possa essere attribuita a nessun uomo, ma a Dio solo. Può darsi che con il tempo venga ridimensionata tale visione, perché se ha cambiato opinione la religione shintoista può darsi che il cattolicesimo non voglia essere inferiore. Comunque la si pensi, vero o falso, sta di fatto che per il cattolicesimo romano durante la messa avviene la transustanziazione del pane e del vino. E poiché gli stessi cattolici quando ascoltano l'Evangelo negano questa dottrina, è opportuno citare per esteso le dichiarazioni che la stessa religione cattolica ha rilasciato e che conferma ogni giorno dichiarazioni che troviamo sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità e quindi il Cristo tutto intero. Tale presenza si dice reale non per esclusione, quasi che le altre non siano reali, ma per antonomasia, perché è sostanziale, e in forza di essa Cristo, uomo Dio tutto intero, si fa presente. 1374. Al centro della celebrazione dell'Eucaristia si trovano il pane e il vino, i quali, per le parole di Cristo e per l'invocazione dello Spirito Santo, diventano il corpo e il sangue di Cristo. 1333. E, per la conversione del pane e del vino nel suo corpo e nel suo sangue, che Cristo diviene presente in questo sacramento. 1375. Ti chiedi in che modo il pane diventa corpo di Cristo e il vino. Sangue di Cristo, te lo dico io. Lo Spirito Santo irrompe e realizza ciò che supera ogni parola e ogni pensiero. 1105. Per un seguace della religione cattolica romana non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che durante la messa il sacerdote ha l'autorità di trasformare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Negare questo significa commettere un sacrilegio oltre che negarne l'evidenza della dottrina. Dato che il tema è importante perché l'Eucaristia è il compendio e la somma della fede del Romanesimo, 1327, possiamo prendere altre fonti diverse da quella del Catechismo della Chiesa Romana, cioè il canone della legge canonica, ossia le norme giuridiche fissate dalla religione cattolica romana per se stessa. Ricordando che il lavoro della redenzione è continuamente compiuto nel mistero del sacrifico dell'Eucaristia, i sacerdoti devono celebrarla spesso. Senza dubbio una celebrazione al giorno è raccomandabile, dato che anche se il credente non può essere presente è l'atto di Cristo. E la Chiesa nella quale i sacerdoti compiono la loro principale funzione, canone 904 della legge canonica rivista, 1984. E ancora. La celebrazione dell'Eucaristia, messa, è l'azione di Cristo stesso. E la Chiesa, in essa Cristo il Signore, attraverso il mistero del sacerdote, offre se stesso. Sostanzialmente presente sotto forma del pane e del vino, a Dio, il Padre, e dona se stesso. Come cibo spirituale per i fedeli che sono uniti alla sua offerta, canone 899, sezione 1, 1084. Per quanto la presenza di Cristo venga dichiarata spirituale dalla religione cattolica, nel momento della messa il pane e il vino si trasformano realmente nel corpo e sangue di Cristo. Questo è il dogma del cattolicesimo romano. Se questo è vero, allora i fedeli nel momento della messa non possono fare altro che bere il sangue di Cristo e mangiare la sua carne. Questa conclusione non deriva da uno schermitore o oppositore del cattolicesimo romano, ma è la logica conseguenza di un ragionamento. Se i cattolici sono accusati di cannibalismo nel prendere il pane e il vino, non è una denuncia infondata, ma coerenza di logica. Se la messa fosse ritenuta solo un ricordo, non mi sarebbe nessuna allusione al cannibalismo, ma poiché è ritenuta un sacrificio, cioè che Cristo muore realmente ed è presente sostanzialmente sotto le specie del pane e del vino, allora non se ne può trarre altra conclusione se non che si sta mangiando realmente il corpo e si sta bevendo letteralmente il sangue di Cristo. Del resto, questo fatto non dovrebbe turbare nessun cattolico perché non sta mangiando un pollo o bevendo il suo sangue, ma solo il suo Salvatore, cioè Cristo Gesù. E che male c'è è per un cattolico se Gesù ha detto di bere letteralmente il suo sangue? Se lo ha detto lui, perché un cattolico deve vergognarsi di mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue? Dobbiamo tutti riconoscere che è molto difficile, ma molto difficile, cambiare le proprie convinzioni, soprattutto se queste hanno radici secolari. Perciò, cercare di convincere un cattolico o soprattutto il cattolicesimo romano che la dottrina della transustanziazione secondo alcuni è assurdo se non diabolico, sembra che non serva proprio a nulla. Alcune verità però dovrebbero essere tenute presenti. Innanzitutto occorre molta umiltà e la convinzione che esista la possibilità di comprendere malamente le parole rilasciate da Cristo in occasione dell'ultima cena, quando nel dare il pane e il vino disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». E nel dare il vino disse: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati». Matteo 26, 26, 26, 29. Parole precise ma non altrettanto facili da comprendere. Che si possa sbagliare nel comprendere la parola di Dio, il cattolicesimo dovrebbe umilmente ammetterlo, perché lo scandalo della condanna rivolta allo scienziato Galilei da parte del Papa e poi ritrattata solo secoli dopo, dovrebbe essere un monito. E non solo. La storia ci ricorda che alcuni papi sono stati eretici, e questa dichiarazione non viene da un avversario del cattolicesimo romano, ma dal Papa Adriano VI, in data 1523. Se per Chiesa romana si intende il suo capo o pontefice, è indiscutibile che egli possa errare anche su argomenti concernenti la fede. Lo fa quando predica l'eresia nei propri giudizi o nelle proprie decretali. In verità, molti pontefici romani furono eretici, e l'ultimo di essi fu Papa Giovanni XXII, 1316-1334. Papa Giovanni XXII non solo era eretico, ma aveva, come altri molti papi, anche un figlio. Un secondo aspetto forse più importante che dovrebbe far riflettere il cattolicesimo romano in merito all'Eucaristia è che Gesù era ebreo. Non occorre molto per sapere che per gli ebrei il sangue non andava assolutamente bevuto e la carne umana non mangiata. Poteva Gesù, da ebreo, ordinare a degli ebrei bere il suo sangue e mangiare la sua carne? Questo va contro ogni logica, contro il buon senso, contro un principio divino. Nell'ultima cena, distribuendo il pane e il vino, Gesù ha parlato di un ricordo, come i primi cristiani si radunavano per ricordare la morte e la resurrezione di Cristo. 1 Corinzi 11.2425. I primi cristiani, nel prendere il pane e il vino, non avevano un sacerdote che trasformava gli elementi, ma ricordavano l'opera salvifica di Cristo che avevano accettato. I primi ebrei cristiani avevano talmente capito le parole di Cristo da testimoniare che il suo sacrificio è stato fatto una volta per sempre. Ebrei 7.27, 9.12, 26, 28, 10.10. Se diamo valore alle parole, l'Eucaristia allora rimane una delle più grandi offese all'opera di Cristo. Dicembre 2005, Ellero.